Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io conto di smentire tutti i portasfiga che stanno contando sui litigi e spaccature, e domani di riuscire a fare sintesi di tutto quanto e cominciare, anzi, proseguire la campagna elettorale tutti insieme. Ed era, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'usuale tono, diciamo, atteggiamento baldanzoso, sicuro di sé, di Salvini, Matteo Salvini, segretario della Lega, nel suo procedere con la sua linea appunto all'interno della Lega Nord, e quindi anche rispetto a Tosi, che è ancora lì tesissimo e non ha ancora proprio fatto il passo decisivo fuori o dentro la Lega. E poi Salvini oggi ha incontrato anche Berlusconi, dice di non aver parlato di politica ma di un altro argomento, ci crediamo poco comunque. Poi ne parleremo di politica. Parleremo anche di quello che davvero si può definire un colpo di scena che c'è stato in una vicenda investigativa giudiziaria, insomma, nella scomparsa di una donna, Roberta Ragusa, di San Giuliano Terme, vicino Pisa, scomparsa nel nulla 2 anni fa. Oggi nell'udienza, nella prima udienza preliminare, insomma, per decidere poi il rinvio a giudizio oppure no, per iniziare il processo oppure no, il marito, che finora era stato nel mirino ed era stato additato da molti, anche dai media, come colpevole, è stato prosciolto. Ne parleremo con un giornalista che ha seguito la vicenda e anche con, naturalmente, Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto, che molto se n'è occupata, come di altri casi. Si devono effettivamente dei meriti anche a Chi l'ha visto, come il fatto di aver insistito molto, per esempio, sulla storia di Lisa Claps, se vi ricordate, che poi era sepolta da 17 anni in una chiesa in Basilicata. Per quanto vi riguarda, stasera, a parte poter commentare come sempre tutte le notizie qui a Effetto Notte, vi ricordo che avete sempre i vostri due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, andate sulla pagina Facebook lì per voi, oppure gli sms al 349-238-6666 per dire: questa sera Berlusconi, una volta finiti i servizi sociali e anche venute fuori le intercettazioni con Tarantini sulle bambine 2 giorni fa, secondo voi, ora che Salvini pare gli tenda la mano, è ancora, cioè, può essere vincente Berlusconi, può esserci una speranza di continuità, oppure secondo voi dovrebbe archiviare un po' la politica? Quindi questi due canali per voi. Io intanto, cosa faccio all'inizio? Come sempre vi racconto in sintesi la giornata. La scomparsa di Roberta Ragusa, il marito è stato prosciolto. Crisi libica, l'allarme di Frontex: dalla Libia sono pronti a partire 1 milione di migranti. Maltempo, è stato domato l'incendio al metanodotto e in Abruzzo decine di comuni senza luce. Le mosse politiche in vista delle regionali: il leader della Lega Salvini vede Berlusconi e Tosi fa sapere potrei correre da solo. Fisco, arriva il 730 precompilato, riguarda 20 milioni di cittadini, ne parleremo. E poi il calcio: positivo l'incontro di Tavecchio con i giocatori del Parma, la squadra torna in campo, si gioca con l'Atalanta. Partiamo quindi dalla notizia che vi davo in apertura di questo, secondo molti, colpo di scena sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa, caso che ha riempito, come dicevo, per mesi le cronache, anzi per 2 anni, di giornali, TV. Oggi nell'udienza preliminare il GUP, che è appunto il giudice per l'udienza preliminare, ha preso una decisione destinata a far discutere e ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio per il marito. Di lei si erano occupate con insistenza, persino troppa insistenza, per mesi tutte le trasmissioni TV di cronaca. Roberta Ragusa era scomparsa ad Agello di San Giuliano Terme, Pisa, la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Scomparsa nel nulla, perché del suo corpo non è rimasta alcuna traccia. Poi la svolta. Il marito, Antonio Logli, viene accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Ma nonostante il processo mediatico e la condanna dei salotti televisivi, i giudici hanno deciso di diversamente. Logli è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Nessuna dichiarazione dall'uomo e dai suoi legali. Rispettiamo questo pronunciamento anche se lo critichiamo, ha invece detto il procuratore facente funzioni di Pisa, Antonio Giaconi. Ora però, dice, è necessario aspettare le motivazioni della sentenza, attese tra 30 o 60 giorni per valutare l'appello per Cassazione. Il procuratore ha ribadito che le indagini non si fermano e che fino a che non arriverà una sentenza definitiva Logli resta imputato. Il procuratore infatti è convinto della colpevolezza dell'uomo, al punto che prima dell'inizio dell'udienza lo ha definito un bugiardo patentato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi Poi, come vi dicevo, cercheremo di ricostruire questa vicenda così intricata che ancora rimane misteriosa, e ci sarà anche Federica Sciarelli di Chi l'ha visto. Adesso però passiamo alla pagina estera, con la crisi libica. 8 guardie sono rimaste uccise nell'assalto di un gruppo di miliziani al campo petrolifero di Algani, 750 chilometri a sud-est di Tripoli. E intanto da Frontex, l'agenzia europea, arriva l'allarme. Fino a 1 milione sono le persone pronte a partire dalla Libia. Nel 2015 dobbiamo essere preparati ad affrontare una situazione più difficile dello scorso anno. Parla così dell'emergenza sbarchi il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, al quale risulta, attraverso più fonti, che sono dai 500.000 al milione i migranti pronti a partire dalle coste libiche. Quanto ad una possibile presenza dell'ISIS dietro il traffico dei clandestini, per ora non ci sono prove, secondo Leggeri, che lo Stato islamico abbia la situazione dell'immigrazione illegale sotto controllo, ma, sottolinea il direttore esecutivo di Frontex, dobbiamo essere coscienti dei rischi, perché se questo non accade ora, potrebbe accadere in futuro. Poi un appello agli Stati membri a mettere a disposizione risorse e persone per fronteggiare l'emergenza legata agli sbarchi, perché, avverte Leggeri, Frontex da solo non è sufficiente. Intanto, dalla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Riga in Lettonia, è emerso un consenso unanime dell'Unione a dare sostegno all'iniziativa diplomatica dell'inviato ONU Bernardino León, che in Marocco sta portando avanti colloqui per la pacificazione in Libia. Secondo fonti diplomatiche, a Rabat si sta discutendo del profilo tecnico che dovranno avere il nuovo premier e i due vice alla guida di un governo di unità nazionale, una volta che i rappresentanti dei due governi libici, quello islamico di Tripoli e quello laico di Tobruk, che è riconosciuto a livello internazionale, avranno trovato un accordo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il maltempo. Sono decine di comuni senza elettricità in Abruzzo, continua a flagellare il centro-sud. Il maltempo è una delle regioni più colpite, al punto l'Abruzzo, con un'ondata di condizioni meteo avverse che ha investito, come vi dicevo, il centro dell'Italia, ma che sta scendendo verso sud. Bufere di neve, raffiche di vento, pioggia incessante. Il centro-sud è in queste ore messo a dura prova dal maltempo, che però sta ora lentamente migliorando. Abruzzo, Toscana e Molise le regioni più colpite, in particolare il comune di Pineto, provincia di Teramo, dove 3 esplosioni ad una condotta del gas hanno provocato un vasto rogo, all'origine uno smottamento dovuto al maltempo che avrebbe provocato la caduta di un traliccio della corrente. Le fiamme sono state domate, 4 persone ricoverate in ospedale e la procura di Teramo ha aperto un'inchiesta. Sempre in Abruzzo le autostrade A24 e A25 sono state chiuse per parecchie ore e ancora 80.000 abruzzesi sono senza luce. Forti disagi anche in Molise, paralizzato dalle incessanti nevicate. Stamattina scuole chiuse in una 70 di comuni, e in Toscana, dove migliaia di famiglie sono ancora senza luce a causa dei danni alle linee elettriche, mentre si contano oltre 300 milioni di danni all'agricoltura. Disagi anche nei collegamenti ferroviari, in particolare nella tratta Firenze-Roma, che ha subito rallentamenti a causa di un albero che ha tranciato un cavo dell'alta velocità. Nelle Marche invece una valanga ha isolato la frazione Foce Comune di Monte Monaco, in provincia di Ascoli Piceno. La Protezione Civile ha infine segnalato criticità rossa per rischio idraulico in Puglia a causa delle piogge. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Quindi questi danni, il maltempo che imperversa, diciamo, probabilmente un leggero miglioramento. Per scoprirlo, mi raccomando, verso la fine della puntata questa sera di Effetto Notte, un classico del venerdì di Effetto Notte, sentiremo le previsioni meteorologiche almeno per il fine settimana, poi vediamo se spostarci più in là. Ma siamo alla politica. Oggi c'è stato il vertice a Milano, vi dicevo, tra Berlusconi e Salvini, e intanto nella Lega Tosi annuncia: potrei correre da solo. È il momento delle scelte nella Lega, e quelle di Matteo Salvini sono due, una sul fronte interno, una sulle alleanze in vista delle regionali. Luca Zaia è il candidato in Veneto, dice il segretario del Carroccio. Chi non lo sostiene fuori, vale a dire Flavio Tosi, il capitolo delle beghe è chiuso. Salvini incontra anche Silvio Berlusconi in via Rovani a Milano, e all'ex cavaliere ribadisce che non ha intenzione di allearsi con Angelino Alfano. Non mi interessano alchimie e capriole. Al termine dell'incontro non manca di scherzare con i cronisti. L'NCD ha scelto Renzi, so, perché poi c'è Milan-Verona domani sera, quindi questo è anche un casino politico, e quindi non possiamo perdere, ha detto. Dobbiamo assolutamente vincere domani sera. Ma il fronte moderato del centrodestra però fa gola a molti, anche al sindaco di Verona Flavio Tosi, al quale non piace il commissariamento proposto da Salvini. Così Tosi da Alessandro Milan. Sei loro, ma diciamo un po' portano avanti questa frattura, a quel punto ognuno è libero di fare quello che meglio crede, quindi Flavio Tosi può anche candidarsi governatore. Intanto Silvio Berlusconi pensa alle alleanze in vista delle regionali. Quello con Salvini è stato un incontro simpatico e cordiale, dice l'ex cavaliere, e indiscrezioni parlano di un asse che regge tra Forza Italia e Lega in Veneto, ma è ancora aperta la partita in Liguria e Toscana. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E prima di incontrare Matteo Salvini, Berlusconi questa mattina è stato a Cesano Boscone per l'ultimo giorno ai servizi sociali. Silvio Berlusconi la liquida con una battuta: non si finisce mai, risponde a chi gli chiede della conclusione dei servizi sociali, ma questa potrebbe non essere solo una frase fatta se le tessere giudiziarie non andassero per lui nel verso giusto. In attesa infatti dell'udienza in cui dovrà essere certificata la conclusione della pena per la condanna nel processo Mediaset, sono altre scadenze a preoccupare l'ex premier, a cominciare dall'arrivo martedì 10 in Cassazione del caso Ruby, col timore che la Corte possa ordinare un appello bis. Sa perfettamente Berlusconi che un'eventuale condanna farebbe saltare anche quello sconto di 3 anni per l'indulto di cui ha beneficiato per Mediaset, e poi incombe la chiusura del Ruby Ter con l'accusa di aver pagato testimoni, atti che potrebbero essere esaminati anche dai giudici di sorveglianza chiamati a pronunciarsi nei prossimi mesi sulla conclusione della pena Mediaset dopo lo sconto di 45 giorni. Dalla sua l'ex premier avrà le relazioni positive della casa di cura per disabili e anziani Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove è stato ogni venerdì e dove ora dice di voler tornare. Il direttore Paolo Pigne: certamente ne stiamo parlando, però non ci sono progettualità particolari. Secondo dell'attività fosse musicale, l'attività fisica veniva fatta dagli operatori con l'affiancamento di Berlusconi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E qui torno a chiedervi quindi la domanda di questa sera: secondo voi, dopo tutte queste vicende, adesso con comunque Renzi che gli riconosce il fatto di essere il leader del maggior partito d'opposizione e Salvini che sembra i tenda in qualche modo la mano, secondo voi Berlusconi ha ancora un futuro politico? 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto sono online sul sito del Parlamento le dichiarazioni dei redditi di deputati e senatori e anche dei membri del governo, dei dirigenti politici riferite al 2013. Per la prima volta non compare proprio Berlusconi, perché è decaduto da senatore, quindi sparito dall'elenco. Con 316.000 euro di imponibile, il presidente del Senato Pietro Grasso ad aggiudicarsi il tradizionale duello ai vertici delle Camere nella classifica dei redditi dei politici italiani. Il reddito dichiarato nel 2014 da Laura Boldrini infatti è di 115.000 euro circa. Tra i più cliccabili sul sito del Parlamento il reddito di Beppe Grillo, pubblicato in quanto dirigente politico, 147.000 euro, più una villa a Marina di Bibbona, un appartamento a Rimini, uno a Megève in Francia e uno a Lugano. Sotto i 100.000 euro, 98.000 circa, Matteo Renzi, più la comproprietà di 2 villini, un box e un uliveto. Tra i ministri, i più facoltosi sono il titolare dell'economia, Padoan, e quello dello sviluppo economico, Guidi. 269.000 e 278.000 rispettivamente, 98.000 e 94.000 per i ministri Madia e Boschi, in coda all'elenco riferito al governo. Tra i senatori a vita il paperone è l'ex presidente Ciampi, 669.000 euro contro i 207.000 dell'ex premier Mario Monti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sull'economia. Il quantitative easing da 60 miliardi al mese partirà solo da lunedì, cioè il produrre, il creare altra moneta, altri euro e comprare i debiti degli stati. Partirà solo da lunedì, ma gli effetti sui mercati dei titoli di Stato appunto sembrano farsi già sentire. Lo spread tra il BTP e il Bund tedesco è sceso oggi sotto quota 90 punti base per la prima volta dal maggio 2010. Il tasso sul decennale del tesoro è all'1,27%. Torna intanto alta la tensione tra la Grecia e Bruxelles. La Grecia è ancora a rischio default e quindi riprende la corsa contro il tempo. L'economia americana invece va bene, ha creato 295.000 nuovi posti di lavoro in febbraio, il dato è il migliore delle attese degli analisti che scommettevano su 235.000, invece sono appunto 295.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 5,5%. 5%. Per chiudere il calcio, è positivo il risultato dell'incontro a Parma tra il presidente della FIGC Carlo Tavecchio e i giocatori gialloblu e rappresentanti dell'asso calciatori. Dopo due rinvii consecutivi, la squadra emiliana tornerà così domenica in campo per disputare la partita con l'Atalanta, in programma alle 15 allo stadio Tardini. Vedo molti vostri messaggi a proposito del possibile futuro di Berlusconi. Carmine da Salerno: ciao Roberta, penso che Berlusca dopo i servizi sociali sicuramente passerà ai servizi forestali. Avete solamente venerdì, siete più rilassati. Poi un altro ascoltatore: futuro di Berlusconi, credevo fosse il 2015. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ho raccontato la giornata in sintesi, tra poco vi ricordo le notizie principali perché so che molti, anche se un po' colpevolmente, qualcuno involontariamente, insomma, accendono più tardi, quindi ve le ricordo tra pochissimo di nuovo le notizie. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito del possibile futuro di Berlusconi dopo la fine dei servizi sociali e la mano forse tesa di Salvini e anche quella di Renzi, ha un futuro politico, Elena dice, purtroppo politicamente come i gatti a sette vite. Sono tutti un po' sull'ironia questa sera. Quali sono le notizie principali? Queste. A partire dall'allarme di Frontex, l'agenzia europea, che dice che dalla Libia ci sono 1 milione di migranti pronti a partire. E poi l'alta rappresentante della politica estera dell'Europa, Mogherini, che dice però gli accordi all'interno del paese tra i due governi, quello riconosciuto e quello no, stanno andando bene. Poi spread ai minimi, ne abbiamo parlato, un buon risultato per la nostra economia. Va benissimo l'economia americana con 295.000 posti in più creati, mentre con Atene dice, attacca la BCE, ci tiene insomma il fiato sul collo. Poi il caos nella Lega, Tosi minaccia l'addio, Salvini avanti con Zaia per le prossime regionali per ricandidarlo al Veneto e intanto incontra l'ex cavaliere Berlusconi che lascia i servizi sociali e oggi scoppia la grana delle escort con le intercettazioni che avete sentito ieri, che magari riproporremo. E poi pubblicati sul sito di Parlamento i redditi dei parlamentari, il maltempo che non dà tregua soprattutto al centro-sud ed esplode un gasdotto in Abruzzo. E poi è stato prosciolto il marito di Roberta Ragusa, il fatto non sussiste, parleremo anche di questo. Ora ci soffermiamo sulla Libia, sulla crisi libica, soprattutto su questo allarme dell'agenzia europea Frontex che dice dalla Libia che allo sfascio c'è 1 milione di migranti pronti a partire, perché è un'emergenza purtroppo bilaterale, diciamo, per la povera popolazione libica che deve scappare da quello che sta succedendo, dall'imperversare delle bande, dell'ISIS in particolare, degli integralisti, e da parte nostra, perché certamente non sarà facile gestire quest'ulteriore flusso se dovesse avvenire. Intanto però il ministro degli esteri Gentiloni dice non serve sollevare allarmismi, si tratta di impegnarci di più noi italiani e l'Europa per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. A Frontex chiediamo maggiore collaborazione. Io invece voglio chiedere la visione di questa situazione ad Arturo Varvelli, che saluto. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e esperto di Libia. A che punto siamo? Perché pare che comunque i negoziati indiretti sotto mediazione dell'ONU in Marocco stiano andando abbastanza bene tra i due governi in Libia, quello riconosciuto e quello invece, diciamo così, autoproclamatosi, ecco. Sì, i negoziati stanno andando bene, ma naturalmente il lavoro è ancora lungo e difficile. Sappiamo a volte i tempi della diplomazia non corrispondono alle emergenze internazionali e alle nostre esigenze di sicurezza e a tutti i nostri problemi che percepiamo sempre come più imminenti, e mi riferisco in particolare al caso dell'immigrazione e naturalmente l'emersione di jihadismi di vario tipo e la presenza dell'ISIS sulle coste libiche. C'è ancora molto da fare, non è detto che si arrivi a una soluzione, questo bisogna dirlo con realismo, però mi pare che sia l'unica soluzione per poter stabilizzare il paese. Tutte le altre volte che abbiamo invece in qualche maniera siamo intervenuti senza tener conto di una stabilità locale che deve venire dal basso in qualche maniera, che deve essere percepita come qualcosa di autoctona, e tutte le altre occasioni dall'Afghanistan all'Iraq eccetera abbiamo visto che si è fallito, le conseguenze sono state peggiori negli anni successivi. Quindi diamo ancora fiducia a queste mediazioni e cerchiamo di ottenere un governo nazionale di unità, in maniera che sia questo naturalmente più legittimo a chiederci poi una sorta di intervento o di aiuto di qualche tipo, lo si deciderà, sia per contrastare l'emergenza ISIS e sia per stabilizzare il paese naturalmente, e anche per fare qualcosa nel campo dell'immigrazione, dove penso che comunque noi ci dovremmo attrezzare, perché l'emergenza sicuramente continuerà. L'arco di instabilità è troppo grande in tutto il Mediterraneo, e per stabilizzare tutta quest'area ci vorranno sicuramente anni. Tra l'altro è quello un po' che diceva lei, lo ha detto in modo naturalmente più articolato, più incisivo, però diciamo una dichiarazione che ho preso dalle agenzie di Federica Mogherini, che dice, a proposito delle stime del direttore di Frontex, rapporto a questo milione di migranti che dovrebbero arrivare, dice: il flusso non si fermerà finché non ne risolveremo le origini, le crisi, i conflitti, la povertà, ma anche finché non risolveremo la situazione in Libia, appunto con questo negoziato che si sta svolgendo a Rabat, e come lei dice si spera che formi, che dia vita a un governo di unità nazionale. Sì, Federica Mogherini ha ragione in questo caso, e ha ragione anche Gentiloni, che ha detto cose molto simili, diciamo. Non bisogna essere allarmisti, ma bisogna essere in realtà realisti, scusate il gioco di parole, ma è l'unica possibilità che si ha in questo momento, è di lavorare sul lungo periodo, non di fare qualcosa nel breve. Tutte le soluzioni possono essere tappabuchi, ma dobbiamo assolutamente lavorare, e lavorare con la comunità internazionale il più ampia possibile. Finalmente sulla Libia c'è una sorta di convergenza, o la si sta cercando. Il nostro primo ministro si sta prodigando anche in questo, anche se ci sono delle grosse ombre di ambiguità, perché tenere insieme da una parte la comunità internazionale e i due governi, dall'altra parte l'Egitto che spinge per un intervento, la Russia di Putin, è naturalmente molto complesso e ci sono delle ambiguità, però bisogna lavorare sul piano internazionale almeno per avere una comunità occidentale che sia decisa alla stabilizzazione della Libia e faccia di tutto perché le due parti si relazionino tra di loro. Grazie Arturo Varvelli. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Ora invece rientriamo in casa, nel senso che queste cose ovviamente avete sentito quanto ci riguardano da vicino, però parliamo di politica interna. Vi ho raccontato più volte in questi giorni del caos all'interno della Lega. Salvini procede per la sua strada, dice Zaia, l'unico candidato per il Veneto. Tosi allora ancora non ha strappato definitivamente, ma dice: potrei candidarmi da solo, allora non ci sto al commissariamento della Lega Veneta da parte della Lega Nord. E intanto che cosa succede? Che lo stesso Salvini tende una mano a Berlusconi, forse, dice in realtà, quando gli hanno chiesto, dopo che è uscito dall'incontro il segretario della Lega Nord Salvini con l'ex cavaliere Berlusconi, che non hanno parlato di politica. E sentiamo allora di che cosa hanno parlato. L'oggetto della discussione con Berlusconi quindi qual era? Il Milan, centrocampo del Milan che fa qua da tutte le parti. Chi si mette dentro allora? So, perché poi c'è Milan-Verona domani sera, quindi questo è anche un casino politico, e quindi non possiamo perdere, ho detto, dobbiamo assolutamente vincere domani sera. Quindi un punto è stato raggiunto nel dialogo di oggi con Berlusconi, un punto fermo? Sì, che Menez gioca dietro le punte. Insomma, diciamo, si schermisce Salvini rispetto a questa possibile alleanza con Berlusconi, prima annunciata settimane fa, poi l'aveva gelato dicendo: ma no, noi proprio non abbiamo parlato di alleanze, semmai a livello locale. Poi oggi dice che hanno parlato di Milan. Dino Pesole, buonasera Dino, del Sole 24 Ore. Buonasera, grazie Roberta, eccomi. Ma al di là di credere a Salvini, cioè, Berlusconi oggi ha finito i servizi sociali a cui era stato condannato con la sentenza Mediaset, ritorna in campo, anche se proprio ieri sono state rivelate delle intercettazioni nei suoi colloqui al telefono con Tarantini, che è indagato nell'inchiesta di Bari per favoreggiamento della prostituzione. Sentiamone giusto uno stralcio di questa intercettazione. Io ho due bambine piccole che tanto che non vedo, per cui una fa la giornalista in Mediaset allo Sport, è una napoletana molto simpatica, molto dolce, e un'altra una bambina di 21 anni brasiliana che è un po' la mia, che mi ha pianto il telefono dicendo che l'ho dimenticata, e allora la faccio venire, insomma, senza peso. Quindi siamo allora con 7 e 2, 9, Sì. E quattro maschietti. Benissimo, siamo in poi capito. Abbiamo Murro e la sua donna, la sua moglie come cantanti, sì. Gemma come cantante e poi chi altro c'è? Gemma come cantante e poi abbiamo il pianista, cioè il coso Danilo alla cosa e Apicella. Berlusconi si è detto amareggiato, indignato per un'ennesima violazione della privacy, così i parlamentari di Forza Italia. Però al di là di questo, quindi Berlusconi, tra la fine dei servizi sociali, queste nuove intercettazioni che sono state portate oggi, in questi giorni, alla luce e Salvini che secondo noi non ha parlato di Milan Salvini con Berlusconi e anche Renzi che alla fine ieri quando Grillo a sua volta gli sottoponeva la possibilità di confronto, di apertura ha detto ma io anche se Berlusconi mi ha colpito profondamente per quello che è successo con l'elezione di Mattarella resta il leader del maggiore partito d'opposizione, quindi Grillo invece si marginalizza, fa capire che vuole continuare a discutere con Berlusconi, quindi qual è il futuro secondo te di Silvio Berlusconi, di Nopesole? Guarda Roberta, io penso che poi al di là delle battute ovviamente insomma mi sembra evidente che oggi non si sia parlato di Milan ma si sia parlato di strategie e di alleanze, perché appunto tutto questo bisogna ricordare che tra breve ci saranno le elezioni regionali e dunque si impongono le alleanze. Io ho un po' l'impressione che ci sia nell'arco delle ultime settimane una ridefinizione degli equilibri politici all'interno del centrodestra e dunque Berlusconi ritorna in campo dopo che di fatto il patto del Nazareno che in qualche modo ha caratterizzato questa prima parte della legislatura è formalmente defunto, anche se poi in realtà sul percorso delle riforme costituzionali e istituzionali dovrebbe essere richiamato in gioco, perché poi quando si tratta di modificare le regole queste vanno fatte col consenso il più ampio possibile, lo diceva Napolitano, Mattarella è al tempo stesso convinto che questo sia, quindi io penso che sia un movimento politico molto forte negli ultimi giorni che riguarda il centrodestra al pari del centrosinistra, ma soprattutto il centrodestra, e che secondo me non potrà che vedere, al di là delle dichiarazioni così di routine o le butade, non potrà che rivedere un'alleanza tra Forza Italia e la Lega. Beh, insomma, poi questo mi sembra il punto fondamentale. È il punto fondamentale, anche se poi se riguardiamo la storia degli ultimi anni vediamo che è stato un rapporto piuttosto contrastato. Ricordiamo l'inizio, no? Il 94, quando finì malissimo tra Bossi e Berlusconi, ma poi hanno governato insieme per molti anni. E dunque casomai c'è un problema di leadership all'interno del centrodestra e forse anche di questo hanno parlato, perché probabilmente Salvini sta facendo, come dire, delle avance piuttosto esplicite e Berlusconi obiettivamente sta perdendo terreno, non solo per le sue vicende giudiziarie, anche per un fatto anagrafico, ma comunque direi che il ciclo berlusconiano mi sembra destinato inesorabilmente a concludersi e quindi si stanno di conseguenza ridefinendo gli equilibri strategici all'interno del centrodestra e questo mi sembra abbastanza evidente. Chiarissimo Dino Pesole, grazie Dino. Grazie, buona serata. Buona serata a te. E vorrei parlarvi anche dell'8 marzo, tra due giorni, sono le solite polemiche, una festa obsoleta, un anniversario che ormai si può archiviare. Diciamo che invece è un post-it, visto che, cioè quindi un promemoria che lì deve rimanere almeno quella volta all'anno, perché continuano ad esserci le disparità nel mondo, al di là di quello che succede nel mondo, di cose terribili, ma anche in paesi occidentali, anche in Italia, il cosiddetto pay gap, per esempio, parlando anche solo dell'Europa, cioè del divario degli stipendi tra uomini e donne, ne ha parlato anche l'OCSE in questi giorni, le donne guadagnano il 16% in meno in Europa degli uomini a parità di qualifiche e di lavoro. L'allarme l'ha lanciato qualche giorno fa anche Christine Lagarde, che è una delle donne più potenti al mondo oggi, la guida del Fondo Monetario Internazionale. Nel suo mirino ha parlato delle restrizioni legali che in troppi paesi, dice, cospirano contro le donne per impedirci di essere economicamente attive. Ha parlato di sessismo sul lavoro, complotto contro le donne, insidiosa congiura anziché pari opportunità. Poi sappiamo anche in Italia solo restando ai nostri confini, un femminicidio ogni due giorni, maltrattamenti in famiglia sulle donne che sono un po' all'ordine del giorno. E ancora quindi un automato di riflessione per le donne, ma si spera anche per gli uomini in Italia, con numerosi incontri in questi giorni da nord a sud dedicati alle disuguaglianze e purtroppo alla violenza, soprattutto quella domestica. Si calcola che nel mondo una donna su tre sotto i 50 anni abbia avuto una qualche forma di aggressione fisica o sessuale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato delle principali cause di morte per le donne nel mondo, che sono i tumori, ma è anche la violenza domestica da parte degli uomini, e se ne è parlato anche alla vigilia della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, che si terrà il 9 marzo a New York. Ci sono tante minacce, abbiamo detto, ma la violenza domestica è particolarmente invalidante per le donne. Un dato preoccupante riguarda l'Italia: la violenza domestica è un crimine che nel nostro paese non viene denunciato, pensate, da oltre il 90% dei casi. Sono circa 100 ogni anno le donne, anche di più, che vengono uccise per mano di uomini. La maggior parte sono partner, ex partner. Bene, abbiamo detto che ci sono vari incontri, vari eventi in programma per domenica. A Bordighera, in Liguria, a Palazzo del Parco, c'è l'appuntamento con Donna ha il diritto di parlare. Si discuterà di violenza psichica in famiglia con il magistrato Domenico Chindemi, che è autore del libro manuale sulle violenze psichiche, aspetti giuridici e sociali, capire e prevenire il femminicidio, e l'ha intervistato Annalisa D'Ambrosio. Non bisogna confondere, ecco, quello che può essere un normale alterco. Ci sono sempre dei rapporti di coppia, dei momenti difficili, dei momenti di tensione, dei momenti anche di litigio, da quella che è la violenza psicologica, che è caratterizzata dalla asimmetria del rapporto, cioè in questo caso l'uomo vuole prevaricare la donna, vuole sottometterla. Se invece c'è un rapporto paritario, certamente non è bello tirarsi dei piatti, però tutto sommato quella non è violenza psicologica, ecco, in senso stretto. Certo, che è una cosa molto sottile. Dottor Chindemi, per questo 8 marzo 2015, che purtroppo sarà un momento di riflessione rispetto a tutti i tragici episodi che la cronaca ci ha raccontato, che cosa dobbiamo augurarci per questo 8 marzo per le donne che sono purtroppo vittime frequenti? E dobbiamo augurarci che la donna prenda coscienza di questa situazione, perché una delle caratteristiche della violenza psicologica è che raramente la donna se ne rende conto veramente, e ancora più raramente lascia il partner violento. Cioè si verifica quello che è, insomma, sostanzialmente il fenomeno della sindrome di Stoccolma, cioè si crea quasi un legame patologico tra vittima e aggressore. A volte le vittime sono portate a colpevolizzarsi, e questo bisogna assolutamente evitarle, cioè bisogna far sì che la donna prenda coscienza di questa situazione, che a volte è perché spesso la vittima, anzi, non solo non prende coscienza, ma addirittura dubita di se stessa, delle proprie impressioni, dei ragionamenti, della realtà, delle proprie azioni, anche perché la si accusa magari di inventare dei problemi. Quindi è facile convincere una donna che la sua percezione dei fatti può essere sbagliata, che può essere ingannevole, negando anche che un fatto sia mai successo. Per esempio, no, mi ha spinto dalle scale, ma non è vero, te lo sei sognato tu, hai fatto questo, no, non è vero, te lo sei sognato tu. Quindi, anche perché chi compie questa violenza tenta di tenerla cercata all'esterno, e quindi l'augurio che si può fare per questo 8 marzo è che le donne prendano coscienza di eventuali situazioni di violenza psicologica in famiglia, che possono avere ovviamente diverse graduazioni, diverse sfumature, e che imparino a reagire. Nei casi più gravi io mi auguro che le donne trovino il coraggio di lasciare i partner violenti, che a volte è l'unica soluzione per uscire da questo inferno. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Le notizie sono naturalmente sempre la crisi libica in primo piano, con l'allarme di Frontex che dice che dalla Libia sono pronti a partire 1 milione di migranti, e principalmente verso l'Italia. Il maltempo, è stato domato l'incendio al metanodotto in Abruzzo, poi le mosse politiche in vista delle regionali, ne abbiamo appena parlato del futuro di Berlusconi. Vedo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e le tensioni all'interno della Lega. Ma adesso ci occupiamo di un caso particolare. E parliamo del caso di Roberta Ragusa, che non è stato rinviato a giudizio. Una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio: non è stato rinviato a giudizio Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, perché il giudice per l'indagine preliminare ha respinto, per udienza preliminare, ha respinto la richiesta della procura di Pisa, dichiarando il non luogo a procedere. Quindi è stato deciso questo dopo circa 2 ore di camera di consiglio. Logli era accusato, vi ricordo, di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere, perché non è mai stato trovato questo corpo. Resta quindi il mistero di Roberta, scomparsa nel nulla il 13 gennaio 2014. C'è Gabriele Masiero, giornalista dell'ANSA, che saluto. Ciao Gabriele. Ciao, buonasera a voi. Tu hai seguito questa vicenda e dopo il percorso che hai seguito di tappa in tappa ti saresti aspettato almeno per il momento una conclusione di questo tipo? No, beh, indubbiamente un'indagine che per 3 anni non ha riservato grossi colpi di scena, quello di oggi è certamente quello meno atteso. Insomma, una sentenza di non luogo a procedere non era davvero nelle previsioni, non lo era addirittura con, ora poi dovremo aspettare le motivazioni della sentenza per capirne di più, con il dispositivo comunque letto oggi in aula dal giudice dell'udienza preliminare, perché è un non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, come se l'ipotesi accusatoria di un omicidio venisse completamente sconfessata, cioè per il giudice in assenza del corpo non si può nemmeno parlare di omicidio, benché fosse un processo indiziario e quindi comunque molto complesso. È parsa a molti oggettivamente un pronunciamento imprevisto, inatteso anche dalla procura, ha accusato il colpo indubbiamente. Gabriele, se tu dovessi dire qual è il particolare, la tappa che più ti ha colpito in questa storia da quando la segui? Sicuramente quella di oggi. Insomma, è difficile giudicare senza aver letto le motivazioni, però la procura ha sempre sostenuto che vi erano indizi sufficienti perlomeno per ottenere il vaglio dibattimentale, che sarebbe stato comunque un primo approccio, un primo tentativo di ricercare dentro il processo, di formare la prova dentro il processo per la verità. La sentenza del giudice ovviamente ribalta il fronte e accoglie di fatto completamente la tesi difensiva. Uso questo termine di fatto perché anche oggi, per l'ennesima volta in questi 3 anni, sia l'avvocato difensore dell'imputato Antonio Logli che Logli stesso hanno scelto la strada del silenzio, quindi non hanno commentato in alcun modo il pronunciamento. E siccome era un'udienza come previsto dalla legge in camera di consiglio, nessuno dei cronisti era ammesso in aula, possiamo soltanto riferire quello che poi è stato raccontato dai presenti, quindi dagli avvocati dei parenti della presunta vittima e dai magistrati. E tutti ci hanno detto che la tesi difensiva non ha portato neppure grandi elementi di novità rispetto alle indagini conosciute e che si è limitata semplicemente a contrastare, a rispedire al mittente le accuse mosse dalla procura. Questo però evidentemente è stato sufficiente per il GUP per non rinviarlo al giudizio. Grazie Gabriele Masiero dell'ANSA. Ciao. Grazie Gabriele. A voi. Ciao. Arrivederci. E naturalmente di questo caso voglio parlare, come non parlarne, con Federica Sciarelli, di Chi l'ha visto, che lungamente se n'è occupata e l'ha preso anche a cuore, come tutti gli altri casi naturalmente. Questo è un caso davvero particolare. Federica. Guarda, che dire, insomma, noi di solito teniamo un barra dritta, diciamo che le mamme è difficile che compaiano volontariamente lasciando i figli a casa, perché insomma questo vorrebbe dire che Roberta Ragusa è una cattiva mamma, quindi abbiamo sempre detto qualche cosa è successo. E ovviamente vogliamo anche leggere le motivazioni, no? Certo. Cioè, il perché di questo proscioglimento. Guarda, noi non siamo colpevolisti, però su questo però teniamo sempre barra dritta, cioè è un po' come abbiamo fatto per Elisa Claps. Noi avevamo detto che non era scomparsa ma era stata uccisa e occultato il cadavere, ed è merito vostro effettivamente che avete insistito su questo caso, no? Con sua madre 17 anni ci sono voluti. E molto spesso quando non si trova il corpo insomma le procure, in questo caso no perché la procura era intenzionata appunto ad andare al processo, però insomma c'è molta cautela. Abbiamo visto che per esempio quando sono ritrovato il corpo di Elena Cesse, il giorno dopo è stato indagato il marito. E poi arrestato, no, il marito. E quindi molto, diciamo, i casi vengono determinati dal ritrovamento del corpo. In questo caso il corpo non c'è. E purtroppo. Noi purtroppo, di una cosa però noi siamo certi, continueremo ovviamente a occuparci di Roberta Ragusa, perché a questo punto ancora di più, no, è una scomparsa. Siamo certi che non è allegramente in qualche paese estero con qualcuno, insomma, questo proprio su questo non ci muoveremo di un passo. Poi insomma, magari, forse così, magari, però lasciare due figli così non sarebbe stato senz'altro il suo comportamento. Federica, ma tu comunque, al di là che lasciamo la tua, naturalmente ai giudici poi valutare il caso, ma che idea ti sei fatta in tutto questo tempo del marito di Roberta Ragusa, di Logli? Ma guarda, noi abbiamo parlato sempre con i fatti, con i documenti e con le interviste. Siccome siamo stati chiamati dal figlio proprio poche ore dopo la scomparsa, noi siamo così lì. A me questa denuncia di scomparsa non piaceva, perché c'era un episodio che sembrava tanto una violenza domestica, questa caduta dalle scale, no? C'era proprio scritto nella denuncia di scomparsa, quindi ho mandato subito i miei inviati, che sono stati, devo dire, accolti bene all'inizio. Nel senso, noi abbiamo delle lunghissime interviste con Antonio Logli. C'è un piccolo particolare, che ci aveva detto a noi, così come agli inquirenti, che lui non aveva un amante, ci aveva detto che non aveva altri telefoni, quindi noi le domande gliele abbiamo fatte tutte. Gli abbiamo fatto la domanda se Roberta avesse per caso un amante, e lui ha detto no, ma gli abbiamo detto anche a lui se lui per caso aveva un amante, insomma, se c'erano contrasti familiari. E queste bugie non è tanto importante dirle ai giornalisti, diciamo, come siamo noi, però sono state dette anche agli inquirenti. Quindi in realtà in un processo lui avrebbe pure potuto spiegare alcune cose che sicuramente non vanno, insomma, anche perché io ritorno sempre lì, insomma, è difficile pensare che Roberta Ragusa se ne sia andata volontariamente di notte con un pigiama rosa e con le pantofole. Se fosse successo qualcosa di drammatico, se si fosse sentita male o se si fosse suicidata, il corpo si sarebbe ritrovato. Non è che si nasconde da sola in un pozzo una donna. Però evidentemente, se hanno deciso di proscioglierlo, forse però non ci guarda, sono. Guarda Roberta, bisogna leggere le motivazioni, sai, ti spiego perché, no? Sì. Il mio punto di vista, perché certo, bisogna essere molto cauti, perché potrebbe anche essere che il magistrato non ha ritenuto che ci potesse essere un processo con delle argomentazioni valide. Voi sapete tutti che se uno viene processato e poi viene assolto fino alla Cassazione, poi non può essere processato due volte, quindi può darsi anche, noi non lo sappiamo, che sia stato deciso di non andare al processo perché non c'erano degli elementi forti per questo processo. Ma quindi di proseguire, sì, magari le indagini contemporaneamente. Sì, quindi non è detto che il procedimento sia archiviare definitivamente, capito? Questo, sì, bisogna vedere nelle motivazioni che ancora non si hanno. Federica Ciarelli, io intanto ti ringrazio. Grazie. Ti auguro buon lavoro. Ciao Roberta, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao Federica. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora lo spazio europeo. Europa 24 notte. L'Europa che punta sull'innovazione, la ricerca tra i punti principali nel bilancio europeo. Cosa ci riserva dunque il futuro a un anno dall'avvio del programma Horizon 2020? Anna Migliorati ha incontrato a Bruxelles Massimo Gaudina, italiano, ai vertici della European Research Council. Siamo ancora all'inizio, perché Horizon è cominciato nel 2014, quindi i primi bandi sono stati chiusi da poco. Quello che emerge è che sicuramente c'è una storia di successo dentro, all'interno del programma Horizon 2020, che è la European Research Council, il Consiglio Europeo delle Ricerche, che ha avuto il suo bilancio molto rafforzato rispetto al passato, ed è proprio la risposta europea alla fuga dei cervelli. Sono finanziamenti a ricercatori individuali che se vengono selezionati ottengono finanziamenti molto consistenti per restare in Europa e fare un progetto di ricerca in Europa. È un successo già dimostrato sia nel precedente programma quadro sia all'inizio di questo, perché vediamo che ormai ogni settimana sulle grandi riviste scientifiche come Nature o Science ci sono articoli che spiegano le scoperte derivanti da progetti dell'ERC, European Research Council. Ci sono addirittura dei giovani o meno giovani ricercatori che hanno vinto una borsa dell'ERC e poi hanno vinto il premio Nobel, gli ultimi due esempi a novembre, Jean Tirole, economista, e la coppia di scienziati norvegesi Moser, tutti e tre premi Nobel e ricercatori ERC al tempo stesso, un prestigio e un contributo all'avanzamento della scienza indiscusso. Quindi questa è la grande storia di successo, ma Horizon 2020 sta appena cominciando e ci saranno sicuramente altri frutti. Queste le carriere che hanno già dato i loro frutti, le ultime scoperte arrivate dai progetti europei, e invece cosa dobbiamo aspettarci nell'imminente, su cosa si sta puntando? Dunque, sulla ricerca di base si punta dappertutto, no? Dove vediamo le scoperte più interessanti in Europa sono il campo dell'ambiente, sicuramente, delle energie rinnovabili, dei nuovi materiali, anche nel campo dei trasporti e delle automobili. Sui nuovi materiali dirò solo un nome, grafene, che è questo nuovo materiale su cui si sta lavorando in tutto il mondo, ma con un grosso sforzo anche in Europa. È un materiale che ha delle applicazioni rivoluzionarie in mille campi diversi, potrà per esempio permettere di arrotolare un iPad come se fosse un foglio di carta. Qui l'Europa sta investendo molto, c'è un grande progetto, un flagship della Commissione Europea, ci sono moltissime borse individuali a ricercatori che vanno in questa direzione, ci sono molte facoltà universitarie che stanno investendo molto, quindi sul grafene sicuramente l'Europa se la sta giocando a livello planetario. Stimiamo un tempo nel quale questa corsa potrà arrivare a un traguardo, è ancora troppo presto. Anche la rivoluzione che tutto questo avrà nella scienza, si parla ormai di scienza 2.0, perché ormai saranno sempre più collegati non solo gli scienziati ma anche i cittadini, che potranno fornire dati in tempo reale agli scienziati su tanti esperimenti. Quindi i tempi si stanno accorciando. Secondo me, questa è una mia previsione personale, al massimo fra 5 anni vedremo qualcosa di straordinario. Beh, 5 anni non sono poi tantissimi, insomma, per un'applicazione così rivoluzionaria. Poi certo, nella scienza, come dicevamo, la svolta può arrivare da un momento all'altro se si è puntato sul ricercatore giusto. Assolutamente, sì, è una stima assolutamente personale, ottimistica forse, ma come dicevo i tempi si stanno accorciando, i tempi della ricerca come i tempi di tutto il resto si stanno accorciando. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus.